La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato a come, nel secondo dopoguerra, il vento trasgressivo del rock and roll proveniente dagli Stati Uniti d'America viene in Italia mitigato e riadattato in chiave nazionale. Ospite ai nostri microfoni Marilisa Merolla, autrice del volume Rock and Roll Italian Way, propaganda americana e modernizzazione nell'Italia che cambia al ritmo del rock and roll, 1954-1964, pubblicato da Coniglio Editore. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato al tentativo, nel 1951, del presidente argentino Juan Perón di produrre energia atomica grazie a un team di esperti guidati dal fisico tedesco Ronald Richter. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. È il 1954. L'Italia è alla vigilia di quella grande espansione industriale dei consumi che passerà alla storia come il miracolo economico della fine degli anni 50. I marinai americani si installano nella base NATO di Napoli. Con le elezioni del 1948 l'Italia ha fatto la sua scelta e in un mondo diviso in blocchi contrapposti ha deciso di stare dalla parte degli Stati Uniti e delle potenze occidentali schierate contro il blocco dei paesi comunisti. Il trattato istitutivo della NATO, l'organizzazione di difesa dei paesi del Nord Atlantico, risale all'aprile del 1949. Ora, nel 1954, con l'arrivo dei marinai americani, parte quella sorta di contagio che dilaga in tutto il territorio nazionale grazie all'industria cinematografica e indirettamente grazie a quella cinematografica esportatrice del modello americano. Tra jukebox, copertine dei nuovi 45 giri e mangiadischi colorati, il rock and roll diviene la colonna sonora della grande trasformazione in atto nel paese. Nell'Italia che cambia, scrive Marilisa Merolla nel libro Rock and Roll Italian Way, propaganda americana e modernizzazione nell'Italia che cambia, ritmo del rock and roll, 1954-1964, pubblicato da Coniglio Editore, e lo stesso sistema di valori del secondo dopoguerra a essere ribaltato. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! A meno di due lustri dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è il rock and roll a esprimere la parabola della modernizzazione. Il cinema non è da meno e moltiplica le pellicole che celebrano i nuovi idoli musicali. La musica diviene l'arma strategica della propaganda americana in chiave anticomunista. Anche in Italia la canzone acquista i connotati del bene simbolo delle nuove generazioni, investite da questa musica travolgente. I ritmi sincopati e scomposti del rock and roll non si limitano a scandire, ma contribuiscono ad accelerare il processo di laicizzazione in corso. In Italia governa la Democrazia Cristiana con coalizioni di centro impegnate in un faticoso dialogo con il Partito Socialista, che da lì a poco porterà le prime esperienze di governi di centrosinistra. E tuttavia la classe dirigente di allora avverte il pericolo. Il vento trasgressivo del rock and roll rischia di essere ingovernabile. Meglio imboccare la strada di una sorta di Italian Way, di modernizzazione in salsa italiana, così da riadattare format e tendenze americane a una più rassicurante chiave nazionale. Eravamo pur sempre il paese di Avvinta come l'Edera e Colomba bianca vola. Son qui fra le tue braccia ancora Avvinta come l'Edera. Son qui, respiro il tuo respiro, son l'edera legata al tuo cuore. Abbiamo in linea Marilisa Merolla che con il suo libro Rock and Roll Italian Way, propaganda americana e modernizzazione dell'Italia che cambia a ritmo del rock and roll, ci ha guidato in questo nostro approfondimento di oggi. Marilisa Merolla è ricercatrice e docente di storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Salve, buonasera a voi. Allora, l'Italia che cambia al ritmo del rock e tuttavia cambia, potremmo dire, in salsa italiana, cioè è una rivoluzione epocale che tuttavia, inserita nel contesto storico dell'Italia di allora, diventa, come potremmo dire, una rivoluzione più blanda, meno forte, così come lo era stato ad esempio negli Stati Uniti? In realtà, diciamo, questo è quello che accade nello scenario politico e sociale dell'Italia della metà anni 50, nel miracolo economico, o quantomeno è quello che, diciamo, il partito di maggioranza relativo, la Democrazia Cristiana, cerca di realizzare attraverso una politica culturale, appunto, che passa attraverso la radio e la televisione di Stato, cioè la necessità di edulcorare o di tradurre in chiave nazionale un messaggio fortemente modernizzante, innovativo, in qualche modo che, diciamo, rischia di lacerare troppi legami tradizionali. Appunto, l'Italia è già travolta da questi nuovi consumi e questi nuovi costumi che in qualche modo hanno un effetto, come dire, dirompente sulla società italiana, no? Che ha costruito la sua identità repubblicana e democratica proprio attraverso le culture di massa tradizionale cattolica e social comunista. E invece questa modernizzazione, questa apparente leggerezza, in realtà sì, disvela molto pesante, no? Questa portata di modernità interpretata nella chiave interpretativa che do io, appunto, dal rock and roll, si manifesta, insomma, in tutta la sua chiave minacciosa. E allora ecco che la Rai TV cerca, attraverso appunto un suo palinsesto, ma anche una casa discografica come la Fonicetra, legata fortemente diciamo all'assetto radiotelevisivo, di filtrare in chiave nazionale questo contenuto così dirompente, così modernizzante. Ecco, e in questo contesto però Napoli in qualche modo rappresenta un'eccezione, perché il fatto stesso che nel 54 i marinai americani si installano nella base NATO di Napoli fa sì che questo messaggio trasgressivo del rock arrivi più direttamente, quindi per una volta Napoli addirittura si presenta da questo punto di vista decisamente all'avanguardia. Io, appunto, per una volta, o come sempre. O come sempre. Cioè, quantomeno come anomalia, no? Certo. Nel contesto nazionale. Cioè, Napoli forse ancora non completamente, diciamo, nazionalizzata, con questa sua identità così controversa, si trova, diciamo, a scavalcare le barriere nazionali ed essere proiettata in un contesto internazionale. Questa base NATO, questa cittadella che si va a incuneare alla metà degli anni 50 nella parte occidentale della città, in realtà non è soltanto una base militare, è un pezzo d'America che con sé porta tutti questi, appunto, diciamo, carichi innovativi, questi vinili veri e propri. In realtà questo tipo di, diciamo, musica arriva anche a scopi propagandistici, non il rock and roll, ma il Dipartimento di Stato americano negli anni della Guerra Fredda conduce una vera e propria Cold War Jazz Crusade, cioè viene usato il jazz per legittimare, quindi la musica leggera, diciamo così, una musica danzante, eccetera eccetera, per cercare di legittimare una presenza militare in un tessuto cittadino in tempo di pace, appunto una guerra fredda. E quindi in realtà i tanti marinai che vengono chiamati con, appunto, nelle bande ufficiali a intonare i motivi jazzistici, in realtà nel tempo libero sono il rock and roll. Ecco perché, diciamo, questo, certo, rock and roll non censurato questa volta dalla Rai governativa arriva proprio sul suolo cittadino fisicamente. Ecco, pure con tutte queste premesse, e tuttavia è innegabile che si trattò di una grandissima rivoluzione del nostro paese. Quello che mi interessa è, anche dal punto di vista culturale e sociale, per la storia anche del costume in Italia, quale fu negli anni 50 l'impatto reale del rock and roll sulla vita della gente, quindi anche a livello culturale, la cultura intesa in senso lato, ovviamente. Sì, diciamo che effettivamente, come dire, quest'opera di rivisitazione in chiave nazionale da parte, appunto, di una Rai TV cattolica è probabilmente riuscita in molti suoi aspetti. Io, conducendo questa ricerca, avevo in mente, per interpretare proprio la canzone simbolo di questa rivisitazione, il pezzo, appunto, di Adriano Celentano, Pregherò, che è la versione appunto italiana di Stand By Me, un pezzo nero di Benny King. Dunque, diciamo, come dire, tutta la matrice in qualche modo più eversiva, più nera, più dirompente, effettivamente viene ricontestualizzata una chiave nazionale ma anche cattolica. Indubbiamente, e questa è la mia ricerca, se no forse non avrebbe avuto senso, il rock and roll forse più di altri mezzi di comunicazione, altri stili, più della televisione che pur subisce una sua Italian Way, nella mia così interpretazione, diciamo, sostengo che forse ha comunque dei germi fortemente innovativi, e chissà però se la società italiana fosse stata veramente pronta a coglierli fino in fondo. Quindi una volta tanto non soltanto i partiti, no, che frenano la carica innovativa, ma forse anche una società troppo legata, diciamo, a paradigmi ancora arcaici, se vogliamo, per coglierne veramente fino in fondo, no, la sfida con il futuro. E tuttavia quegli anni 50 anche oggi vengono citati da più parti quando si denuncia ad esempio gli scarsi ritmi di crescita dell'economia come uno dei periodi di più grande espansione non solo dell'economia italiana ma anche dell'intera società e del popolo italiano che era uscito distrutto dalla guerra mondiale. In questo senso potremmo dire che pur con questi limiti che abbiamo appena esposto la musica accompagna questo grande processo. Indubbiamente, appunto la musica leggera è un interprete eccezionale, una fonte per noi storici per ricostruire quel clima, ma anche un agente, cioè l'idea appunto anche mia di voler utilizzare queste fonti sonore, la canzone, non soltanto per ricostruire un pezzo di storia, ma per dimostrare come queste fonti siano agenti che hanno modificato la società nel suo divenire. Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. La storia e la memoria torna tra poco. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria per la seconda parte del nostro appuntamento settimanale con la storia. Ascoltiamo adesso il documentario che Radio 24 ha realizzato in collaborazione con History Channel, dedicato alla realizzazione, nell'Argentina di Juan Perón del secondo dopoguerra, di un laboratorio per la produzione di energia atomica. Un progetto segreto guidato dal fisico tedesco Ronald Richter e che non portò poi ad alcun risultato. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale i fisici tedeschi cercano di costruire una bomba atomica ed altre armi segrete prima degli Stati Uniti, nel tentativo di arrestare l'ormai imminente crollo del Terzo Reich. Ma Hitler ha espulso Einstein dalla Germania e gli scienziati nazisti non riescono nell'intento. Stranamente, l'Argentina, che è rimasta neutrale fino adesso e proprio per questo ha accumulato una consistente ricchezza, ha cominciato ad accogliere scienziati e tecnici dall'ormai defunto Terzo Reich. L'obiettivo? Continuare a lavorare allo sviluppo dell'energia agli ordini di un nuovo leader, il generale Juan Domingo Perón. Pochi mesi dopo la distruzione di Hiroshima e Nagasaki ad opera delle bombe atomiche, l'Argentina avvia il suo programma nucleare. Soltanto gli Stati Uniti d'America sanno come liberare l'enorme quantità di energia contenuta negli atomi. L'Unione Sovietica non è ancora riuscita a far esplodere una bomba atomica. Nel 1947 in America un giornale liberale di sinistra, The New Republic, pubblica un articolo allarmante. L'Argentina sta lavorando a un piano militare segreto per produrre la bomba atomica. Una notizia che non può passare inosservata visto il potenziale economico della nazione. L'articolo parla anche della possibilità che Werner Heisenberg, il famoso fisico tedesco e vincitore del premio Nobel, sia emigrato in Argentina. Il settimanale spiega anche come una nazione, rimasta sempre estranea ai conflitti internazionali, avrebbe potuto modificare per la prima volta l'equilibrio tra le grandi potenze nel dopoguerra. Ma è possibile che un paese come l'Argentina, che ha dichiarato guerra all'asse poche settimane prima della sua disfatta, possa essere in grado di sviluppare, con il permesso delle forze che avevano vinto la guerra, un proprio programma nucleare che nessun altro aveva mai sviluppato fuori dagli Stati Uniti? È tollerabile che i progressi tecnologici fatti dall'Argentina in campo nucleare siano possibili grazie ad un gruppo di scienziati tedeschi del Terzo Reich? È possibile che la cosiddetta terza posizione, che secondo il generale Perón pone l'Argentina a metà strada fra comunismo e capitalismo, possa servire da copertura a un quarto Reich sudamericano? Perché la propaganda ufficiale statunitense tenta di collegare Perón ai nazisti? È vero che Perón, le forze armate argentine e la popolazione civile simpatizzano con il nazionalsocialismo? Ed è vero che il programma nucleare dell'Argentina prevede anche la creazione di una bomba atomica, quella che Adolf Hitler non è riuscito a costruire? Durante il Natale del 1947, il maggiore Gallardo Valdés, addetto aeronautico presso l'ambasciata argentina di Stoccolma, riceve un telegramma inviatogli dai suoi superiori di Buenos Aires. In poche e concise righe gli viene detto di abbandonare la sua destinazione iniziale, l'ambasciata di Mosca, e di recarsi a Oslo in missione segreta. Qui il consolato argentino gli avrebbe consegnato 3 cittadini tedeschi che dovevano essere portati in Argentina usando passaporti falsi. L'identità falsa di uno dei 3 cittadini tedeschi è Pedro Jorge Matthies. Il suo vero nome è Kurt Tank. Ingegnere aeronautico molto famoso in patria, ha progettato alcuni degli aerei più moderni del Terzo Reich. Desidera rifugiarsi nell'America del Sud per non essere costretto a riferire le sue conoscenze agli Stati Uniti, o peggio ancora all'Unione Sovietica. Così riesce a scappare dalla Germania per iniziare la sua nuova vita in Argentina, dove Juan Perón attende con ansia il suo arrivo. Poco dopo essere arrivato in Argentina, l'ingegner Tank raccomanda al presidente Perón di includere anche il fisico austriaco Ronald Richter nel nuovo team di scienziati e tecnici chiamati a servire il governo peronista. Perón dà molto credito alle sue raccomandazioni. Nato in Austria nel 1909, Richter ha già un suo laboratorio prima di entrare nell'Università di Praga, dove si è laureato nel 1935. Prima di partire per l'Argentina, Richter lavora per una compagnia tedesca, la AEG, e l'Institut Français du Pétrole di Parigi. La raccomandazione di Tank va in porto. Appena una settimana dopo il suo arrivo a Buenos Aires, il 24 agosto del 1948, lo scienziato viene ricevuto alla Casa Rosada dal presidente Perón in persona. Richter, con grande sicurezza di sé, espone a Perón le sue idee su come utilizzare l'energia atomica. Perón non sa nulla di fisica, ma Richter riesce a farsi capire attraverso una serie di metafore didattiche. Quello che propongo è la creazione di un piccolo sole. L'immenso potere del sole ha origine da reazioni termonucleari che utilizzano l'idrogeno come combustibile, l'elemento più abbondante presente in natura. Secondo Richter, le reazioni scatenate dalla fusione termonucleare potrebbero fornire una quantità di energia virtualmente illimitata e a basso costo. Possiamo iniziare a lavorare su progetti atomici seguendo le procedure americane, ma per farlo abbiamo bisogno di circa 6 miliardi di dollari. Il risultato è sicuro. Grazie a queste procedure possiamo produrre energia. Basta che mi diate 6 miliardi di dollari. L'altra strada è la fusione. Usando la fusione possiamo produrre energia oppure no. Dobbiamo ancora fare 2 o 3 scoperte e potremmo farcela oppure non farcela. Ma tutto potrebbe essere fatto a costo zero. Dopo quel primo incontro con Perón, Richter si stabilisce a Córdoba insieme a Tank, ma in un laboratorio suo. Il progetto atomico è iniziato. Nel maggio del 1950 cominciano i lavori per la costruzione del reattore di Richter sull'isola di Hue Mun. Un gigantesco cilindro di calcestruzzo alto 12 metri e con un diametro molto ampio. Gli operai non possono fermarsi. Sanno di far parte di uno dei progetti più importanti della storia del loro paese. Ma la principale preoccupazione di Richter è la sicurezza. Richter intitola le quattro pagine in tedesco inviate a Perón piano per l'organizzazione del progetto Hue Mun e sulla copertina aggiunge la nota Top Secret. La maggior parte del documento fa riferimento alla sicurezza del progetto e, cosa più importante, comprende la richiesta di avere il controllo assoluto sull'isola, suggerendo a Perón un piano per ottenere la massima protezione. Suggerisce anche la creazione di un gruppo di militari armati con il permesso di aprire il fuoco in caso di necessità. Inoltre chiede di autorizzare il personale a portare armi per impedire agli agenti stranieri di entrare. Infine chiede la costruzione di una torre d'osservazione con un radiofaro sulla sommità, la presenza di due guardie nei laboratori top secret, un impianto di illuminazione impossibile da disattivare e la disponibilità di una nave pronta a trasportare truppe in caso di attacco o di attività spionistica. Avete ascoltato il documentario realizzato da Radio 24 in collaborazione con History Channel dal titolo originale Il Quarto Reich in Argentina. La versione integrale video andrà in onda su History Channel lunedì 6 giugno alle ore 17. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.